negativo. Vabbè, dai, io accendo adesso. Stavo facendo un po' di selezione, documenti e varie che non servono più, se li ho eliminati, così almeno ho fatto anche un po' di posto. Sì, è fatto bene, tanto. Sì, infatti, ho riempito tutta la cassa del comune, che ha lasciato, come ha lasciato il comune per la carta, si può immaginare, la giubbiena. Insomma, almeno ci si è liberato di un po' di cartaccia. Tutta cartaccia di quando lavoravo, addirittura quasi 50 anni fa. Domande, bollette di quando ho comprato materiale, tutte queste cose qua, dai. Ho fatto la selezione, taglio un po' di tutto. Tanto ormai non mi serve più. E infatti, ti decano. Con la macchinetta per tagliare la carta a strisce, dunque mi sono buio con la macchinetta, perché si fa, vabbè, non è la mia la macchinetta, ma è di mia figlia che ce l'ha nell'ufficio lì, per cui mette la carta e te la fa a striscioline. E ce l'avevamo pure al comune, siccome glielo ha detto alla carta, no? E i documenti scottanti li dovevo distruggere, capito? E li mettevo dentro quella macchinetta e le valia qui. Sì, è un gioco. Però sai, prima di tagliare ho dovuto leggere, controllare, per vedere se c'era qualcosa di importante, no? E invece tutta roba ormai no. La più recente risale a 20 anni fa, sì, che cosa me ne faccio? Contratti di lavoro, tutte queste cose, disegni, tutte queste cose qua, di tutti i lavori che ho fatto. Bollette di quando acquistavo materiale, ti ha mezzo truccato un po' di bombo di legno, vai. Capita. Io lo grido, 50 anni di travaglio, non lo so qui. 50 anni è quanto mio, è più quelli che ho fatto sotto principale, perché ti puoi immaginare, poveri alberi. Quanto siamo crudeli questi falegnami che distruggiamo gli alberi. E ha fatto il fatto che non l'ha tagliato tu, a te ti l'hanno dato, gli ha tagliato, eh? E tu hai continuato, però non è che l'hai tagliato da terra, tu l'hai voluto, quindi non sei colpevole giù. Beh, in effetti no, in effetti è così, no, ma io l'ho fatto tutta sera dura. Io ho sbagliato un tavolone e ce n'erano certi pesantissimi anche tavoloni quando usavo il principale, ad esempio, oppure quando usavo il Douglas, oppure l'Iroco soprattutto, poi non le vedemmo, legni pesantissimi, capita, mi ha tavolone largo, ho tagliato tavoloni anche di 90-95 cm, un metro di larghezza, lunghi 5-6 metri. Tutti i matapizzi, andando giù di tutto. Ma da voi hai visto cosa è uscito da questi tavoloni? Un bel rimasto uscito, un bel, soprattutto questo, quello che interessava a me da questo. Gli hanno già costruito, ma gli ha bisogno di alzare il burulino. E questo è importante, anzi è la cosa più importante per me. Se non vi danno di là la famiglia come ti raccampavi giù? Tu lo vuoi far campare la famiglia e hai campato pure, no? Imparare la famiglia. È logico che dovevi lavorare per fare soldi. La famiglia diaria non campa, no? Non di certo. Quello sì. Fare grande la famiglia, realizzare qualcosa di concreto per la famiglia e soprattutto per il resto della vita, quello è stato importante. Già Gesù fecco, ma comunque diciamo che le mie soddisfazioni già ce le ho avute, considerando che ho sacrificato tantissime ore, ma tante ore, tante volte. Dicevo allo buio una casa d'inverno e rientravo allo buio, è incredibile, ma comunque ho mai passato. Quando vai a travagliare bisogna darci dentro. Molte volte manco le ferie gli dà, specialmente in estate, il principale a Lello, perché deve essere gli aumenta lavoro l'ingallura e allora abilitarsi in un altro periodo oppure glieli paga, capito? Perché le persone non possono smettere di lavorare, quella è una fabbrichetta, è roba manna, Emmi, capito? Certo, Natalia, le ferie, anch'io ferie non è che ne abbia fatto molto, sì, facevo, però non più di tanto, non era come quando ero sotto principale che ti dava le ferie e te ne facevi tutta la tirata, magari quando invece stai lavorando a conto tuo hai degli impegni, allora intanto non ti vai a bobbidì. E poi quelle ferie sono recuperate dal numero di ore che fai durante il giorno, perché non è che fai 8 ore di lavoro, io minimo ne facevo sempre minimo 10 ore, fatelo conto, dalle 8 del mattino all'una, l'una e un quarto, l'una e mezzo durante tutti, poi se stavo incollando potevano essere anche le 2 perché dovevo finire l'incollaggio, magari per averlo pronto la sera. Oppure la notte, rientravi alle 3 e poi uscivo alle 8 e mezzo, alle 9, perché fate un conto, canturi di trabaglio, dovevi oh yeah! Quando si racconta tu, io non la baiti l'orario, e cosa baiti? Prima vini e prima incassi. È proprio così, prima finisci e prima incassi, è vero. E poi, anche perché quando avevi tanto lavoro, che devo dire grazie a Dio non mi è mai mancato, ho sempre dovuto camellare molto, perché sennò i tempi erano troppo lunghi per le consegne, eccetera, e allora dovevo per forza fare ore. Sempre, tante volte mi ricordo, anche da fidanzatemi, veniva la mia fidanzata, veniva oggi, cioè oggi è mia moglie, tante volte anche fino alle 11 di notte, alla notte rimanevo lì incollando, magari mi facevo l'incollaggio, iniziavo, che so io, verso le 8, 8 e mezzo a fare l'incollaggio e potevo finire anche alle 11 per avere le porte pronte all'indomani, magari mi avevo incollato 10 anni tutta l'una, uno sopra l'altro, pressati, così all'indomani la corda era asciutta e potevo andare avanti, se invece facevo diversamente, se l'incollavo di giorno magari perdevo la giornata o perlomeno dovevi sospendere quel lavoro e cominciare con un altro, invece facendo così mi organizzavo e tiravo a campare. A Romacco quando entravi Romanzano avevi già il materiale pronto, già incollato e asciutto, e se no non puoi continuare, purtroppo queste cose bisogna che uno si organizzi e di volte lui risoluburu tu figureggiati. Appunto, tutto io ho giovato, tutto quello che avresti lì, non si può dire, nessuno può dire che mi ha giovato la casa a me, me l'ha giovata io con i bracci lì, la casa era posizione, tutto io ho giovato. Ma come Maria non mi ha mai pesato il sacrificio del lavoro, già ho sempre lavorato volentieri, per cui va bene, veramente la sera io ero solo il zinco, allora io ho la sarro così mi andando a rubarmi, faccio la macchina a parte con i compagni e yoga a tutti i dini. E la poi veniva da me da ventenne, dice, porca miseria, dico, mi si è incacciato un bongo, e allora perché hai trovato un bongo, ma poi te hai incacciato un bongo, se non hai fatto nuda. E infatti, se uno non fa nuda, cosa vuoi incacci? Uno, quando vuoi a conto suo, più travaglia è meglio, Io addirittura a conto di principali, 12 giorni mi vazio. Addirittura c'è stata mia moglie quando lavoravo al comune, mi diceva cosa che io travagliavo troppo, e io era vero, ma cosa un obbedienti si imboscava e non faceva nulla, ed io mi dovevo fare un mio e lo di là se ti vivi, capito? Io lo so cosa vuol dire lavorare, io ho lavorato da bambino piccolo stesso, che andavo a scuola e lavoravo allo stesso tempo, infatti babbo non ne budia la vita, a chi vedia che era intelligente e lui voleva mandarmi a scuola, capito, invece di farmi lavorare, solo che a me mi piacevano i ridinà e l'udivicimento, mi ha fuggito se dovevo lavorare. anche a me a lavorare mi è sempre piaciuto, quindi non è che mi piacesse. Certo, ma sì, tu pensa che ho trovato il libretto di lavoro che avevo appena 14 anni, il primo libretto di lavoro, ho trovato anche quello, infatti quello me lo posso conservato. E c'erano tutti i posti dove ho lavorato, che sono pochissimi. Prima ho cominciato come apprendista elettricista, c'è scritto nel coso. Dopo alcuni anni operaio elettricista, c'è scritto. Poi da lì sono passato in falegnameria e allora ho cominciato a lavorare a capo, apprendista falegname. Poi alla fine, dopo anni, di nuovo operaio falegname e così via. Per dirti, no, per sempre c'è un libretto di lavoro, ma ha aumentato quando ha giovato lo primo libretto di lavoro che si faceva a 14 anni, allora prima non si poteva fare, se no l'avrei dovuto fare addirittura 10 anni e mezzo quando sono iniziato a lavorare, perché ho iniziato a quell'età. E va bene, però non sono comunque, grazie a Dio sono andato avanti sempre in piena salute. E anche io ero così fino a un paio di anni fa Rusano guente un pezzo e ci vedeva andare a travagliare e già non mi tiravo indietro. Anche cosa mi diceva mia moglie, perché ero puntuale andando a lavorare e troppo presto e mi diceva quando dicevo un preso e mi diceva cosa, che lavoravo troppo e tu non travagliare. E Rodrigo, e a me cosa mi dicia? Ma io c'è sabato non ci andare, come non ci vado, io vado e come vado, altro che perché mi serve andare, o perché dovevo fare incollaggi, o perché dovevo qualcosa da finire, o perché dovevo verniciare, anzi ne approfittavo proprio in quei giorni di festa, che dovevo ad esempio verniciare, non laccare soprattutto, perché avendo poco spazio non è che potevo laccare tutto a una passata, tutta una volta, anziché sui cavalletti, sul sabato e poi spostavo sui banchi e spandevo su un po' per tutta la bottega, noi, i pezzi fin quando si asciugavano. Andavo lì, mi laccavo tutto, verniciato, a lunedì quando arrivavo tutto asciutto, tutto a posto, la piazzavo, consegnavo e arrivavo lì di là. È così che bisogna lavorare. Vabbè. Il sacrificio è vero e fatica è, perché bisogna riconoscere che ho faticato molto, però grazie a Dio le mie soddisfazioni ce le ho avute e ne sto godendo soprattutto la salute. E fai fuzza, uno anda a travagliare, come te, ti ha rubrito, e se no, pausa travagli, bara madonna, uno travaglia a pausa di campare a famiglia. Quindi si travaglia un me e guadagna, se non travaglia non guadagna, mentre i due vini alla metà si hanno in te, se non travagliava per forza non incasciava. Infatti, ma era così, in effetti era così. Vabbè, comunque, mi rammento in chi in del vetro Cristi il via Pascoli, no, lì nell'angolo c'era un meccanico, c'era. Era una bravissima persona, un pezzo di pane come uomo, ma era talmente mandroni, capita, guarda, è lo zero di via, perché purtroppo è morto già da alcuni anni, ma era talmente mandroni, era una cosa impressionante. Dice ogni mezz'ora veniva a rompermi la pazienza a me in falegnameria. Mi ricordo un giorno avevo appena laccato un mobile, capita. Mi arrivi, c'era il fianco del mobile sopra i cavalletti, caspita che bello lucido, brillante, fino a si muove la mano in alto, soprattutto quando la pernice era ancora fresca, porca miseria, che va sabato, mai rovinato il travaglio, ma come mai? No, scusa, ma pensavo che era asciutto, e pensavo che era asciutto, ma ti sembra che tu vedi un posto e so che così, dai. Ho dovuto aspettare che il fianco asciugasse per poi carteggiare di nuovo la capo e riverniciare o un natalino. E quello mi è costato un'altra giornata di lavoro, perché anziché se ho consegnato per dire oggi ho dovuto consegnare di domani dopo, proprio per quel motivo lì, per dire no, questi erano amici e d'altronde cosa vuoi fare, io no, non si voglio mandare, se sapete quando non mi sono rompendo le cattoli, che hai buttato addirittura un cartello che non voglio più amici in famiglia media nelle ore di lavoro. Forse l'avevi detto anche tu qualche tempo fa. Ma no, non ho mai visto niente del genere. Però hai fatto bene, è che se no ogni 5 minuti veniva a rompere il cazzo per andare da Valenti giù. Infatti c'erano tutte quelle che venivano dalla radio soprattutto, dai. Ma a fammi immediatamente se tutto un'ora. Poi a me la dire, beh, mettetemi la parte, discutete fra di voi, io sono da Valenti, vi ascolto, vi rispondo anche, non è un problema. E beh, se non ti si buonia di mezzo bene, e tu non dici, ma che muovici, ma cosa aveva niente di mezzo bene. Allora mi sono curato le scatole, ho fatto un cartello, intanto gli ho detto a voce, mi dispiace per voi, però non venite più nel mio lavoro, perché io devo lavorare. E aggiungo un cartello, e questo cartello vale per le persone che non hanno avuto questa avvertenza. E così ha funzionato, dato che al massimo venivano uno, due, ma venivano anche tutti a posto, senza mettersi in mezzo ai piedi. E per dire che buttava gente, soprattutto nella macchina, tutti vuole mettere i piedi. Mi urti e ci posso mettere anche le mani nelle macchine. E tanto non so poco pericoloso che c'è macchine giù. Era quello, ma per dire no. Dunque, era cosa è andata così. Ma nessuno si è offeso, hanno capito, amici come prima, però nelle ore di lavoro io non volevo più nessuno, non ho voluto più nessuno. Quando sono fuori dal lavoro possiamo stare anche tutta la sera insieme, non mi interessa, ma quando sono al lavoro non voglio avere nessuno in mezzo ai piedi, e così è stato. E infatti ti davano fastidio e basta, nel senso che non ti facevano lavorare, chi non pudi fare la cosa impressa, hai muoviti impressa a lavare legnameria. Si vedeva niente, ti impedivano i movimenti. È vero quello, è il cavolo. Infatti, per cui, capita, a Giuseppe, fatto di tutta la misura, per cui anche se alle volte mi serviva una mano per mantenere, non so, che so io, una porta finestra, perché essendo lunga, magari dovevo passare una battuta, dovevo passare cose, e mi organizzavo, mi attrezzavo la macchina come se ci fosse una persona che stesse mantenendo, perché la macchina la mettevo sulla macchina attrezzata, con tanto gli allungo, eccetera, e io facevo scivolare la porta finestra sulla macchina senza bisogno di mettere nessuno la mano, niente, non ce n'era bisogno, perché mi attrezzavo, perdevo magari quei 10 minuti ad attrezzare la macchina, però poi lavoravo alla grande, che era una meraviglia. Poi ho visto anche i lavori che hai fatto, tu ne ho visto di lavori. Un bel mezzo troncato di legno, un bel, e tante pannelli ho distrutto, e migliaia di fogli di compensati anche ho usato, ho tagliato, e toni più di vernice ho consumato anche, mamma mia, e vabbè, là, comunque, andata così, e vabbè, e sono contento. Interessante la salute adesso, quello che adesso può preoccupare, la salute, ma grazie a Dio già sta andando bene, dai. Anche dall'ultimo controllo che ho fatto, mi hanno dato un esito buono, dicevo non c'è niente, naturalmente devo continuare sempre la terapia, è ovvio, perché la devo completare, devono passare 3 anni, e la completerò ancora un anno, ne ho. Grosso modo un anno ancora, 10 mesi da fare la testa. Sono contento per te almeno, e me lo togli da mezzo anche quello. Io lo stesso ho lavorato da bambino piccolo, ho sempre lavorato io, la verità. Avammi in questi ultimi anni, però purtroppo c'è stata la malattia e cosa vuoi fare? Quello quando uno è sfortunato e c'è quel problema lì, allora il discorso è diverso, però se quando uno è sano e male in piedi è giusto che lavori, però avere la morale, poi se uno è ricco, ma gente è ricco, e se fa la vita da ricco, ma se uno deve lavorare per campare è giusto che lo faccia. Certo, quando uno si ammala è ovvio che a un certo punto non ce la fai più, pazienza. E vabbè, e tanto ci siamo in vicende, e cosa vuoi fare? Andata lì, così è la vita. E infatti cosa vuoi fare? Ci siamo invecchiati e speriamo che almeno rimanga sano un po' di tempo, diciamo così. Certo che sì, c'è uno che sta chiamando da fuori, c'è uno che sta chiamando la propagazione da te. Così è, la vita è così, dai. Oh, ti hai cercato un medico, aveva sempre 20 anni, e invece, già. Quando abbiamo 20 anni, sempre con 20 anni, io non riesco a capire, che avevo tolto tutta quella energia là. Perché poi finivo di lavorare e andavo in palestra, e riuscivo dalla palestra alle 11, alle 11 e mezza la notte, dopo tutti gli allenamenti, dopo tutto il sacrificio del lavoro che facevo, non mi bastava e andavo a fessolarmi la bassona, da poi correndo a piedi. Comunque lo facevo volentieri, avevo la passione, avevo e l'ho fatto volentieri. E forse mi ha fatto anche bene per il proseguo della vita. Vai Natale. Lo sport vuol dire molto, giù. Anche io andavo in palestra. Oltre che lavoravo facevo anche sport e quindi sono stato sfortunato in questi ultimi anni. E cosa vuoi fare? Diamo argomenti bene. Tanto non comandiamo noi, comanda chi tu di sopra, mi giù. Sì, è ben certo che sì, in effetti è così, io andata lì. Solo davanti a lui ci dobbiamo inchinare. Solo davanti a lui. Poi se uno non crede, non è nemmeno necessario frequentare per forza la chiesa, per credere, per carità, assolutamente no. Uno se crede può pregare anche a conto suo tranquillamente. Va bene, lui che è bravo, vuole bene a tutti, Natalino. Lui, Dio, vuole bene a tutti. Brutti e netto, cattivi e bravi, a tutti buon vedo. È morto per noi, già lo credo. Cosa ti volevo dire? Ma cosa ce n'è fatto di Gianfranco? Non l'ho più sentito. Nemmeno io l'ho sentito, non lo so, forse non combinavo gli orari, sarà impegnato, non lo so, forse che stia facendo attività radioamatoriale, non lo so, se non si fa sentire non possiamo sapere niente. Lo ascolteremo quando si farà sentire e così ci dirà se crede. E infatti, se crede ci dirà cosa vuoi ti dici. Uno di Pindira con Sirio che entrava la sera e avevano ben 30 di nessuno. La sera non c'era più nessuno, mi stavo anche stufando di stare qua a ascoltarmi il QRM, molte volte mettevo lo scorcio proprio per non sentire manco il QRM, se parlavo a qualcuno lo rispondevo. Attenzione alla frequenza, si è copiato per... Sì Paolo, ti copiamo anche molto bene, avanti, da dove trasmetti, ti risponde Giulio Nolla da Sassa, in compagnia di Natalino, avanti Paolo. Buonasera, qui operatore Paolo in barra Moda, Calabria. Paolo, sei sparito, non ti sento più Paolo, non so se mi stai ascoltando, sei in barra Moda, quello ho capito, ma non ti sento più, Mi copio adesso, Ok, va bene, dai, comunque ti saluto, poi vado a casa vai, me lo ripeti con più chiarezza, dai. Ti mando avanti Natalino per i saluti, sempre dalla città di Sassari, Sardegna. Avanti Natalino. Ciao Paolo, l'amico della Calabria, da Gerace in Calabria sta chiamando l'amico Paolo giù. Ah, ho capito, si trova in Calabria. Avanti Paolo, stai ascoltando? sicuro, sta abbassando la propagazione forse, non lo so, perché il segnale si è abbassato molto, e mi si è arrivato bassissimo adesso, non so come mi ascolti tu, va bene, io sono una stazione fissa comunque, e tu sei in malamobile, e magari il problema è proprio quello, eh. Avanti Paolo, sperando di ascoltarti bene, avanti Paolo. Ok Paolo, sì, anche tu mi arrivi più o meno lo stesso segnale? Lo stesso segnale all'incirca così, la radio magari non è molto forte, bassina, ma evidentemente è dovuta al fatto che sei in malamobile. Ti mando di nuovo avanti Natalino, oppure direi se ascolti Natalino, avanti Natalino per Paolo. Paolo, io ti saluto, il 63 a te e al QRA familiare, non so come mi stai ascoltando tu, comunque ti ho sentito e ho voluto salutarti, dai. Ancora a te Paolo. Sì Paolo, siamo in Sardegna, dai, adesso mi dovrai sentire un po' meglio, vediamo un po', dai, mi dovresti sentire un po' meglio adesso. Io non lo so, io ripeto, ti dicevo Santiago 7, radio 3-4, però abbastanza pulita, chiara, all'infuori di qualche momento che magari la propagazione si abbassa un attimino. Avanti ancora Paolo, si è ascoltato Giulio K. Ok, ho capito. Si togli una curiosità Paolo, visto che hai parlato di camper, l'antenna dove ce l'hai? Sul tettuccio del camper o sul parafango anteriore? Togli questa curiosità, perché so che dal camper non è molto buona l'emissione dell'RF. Avanti Paolo. Ok, ho capito, dai, ho capito. No, dai, va bene, dai, no, perché solitamente il camper non avendo piano riflettente, in quanto non è fatto di lamiera, ma bensì di materiale isolante, non ha una propagazione molto efficace, ma evidentemente hai fatto qualche accorgimento all'antenna, che so io, non so, qualche piatto avrai messo sotto l'antenna, oppure qualche radiale in aggiunta, non lo so, evidentemente è così, va bene, comunque ti ascolto, così va benissimo. Avanti Natali. E a me mi ascolta basso, quindi non... magari a volte non mi ascolterà neanche, perché io sto scendo bassino, ho capito, 2,5 watt giù, magari non mi ascolta neanche l'amico, e qui c'è l'antenna, il problema di avere l'antenna bassa, capito? Lo so, ma ti ascolta lo stesso, sono convinto che ti ascolta lo stesso. Ascolti Natalino, dammi conferma. Ok, ciao Paolo, allora, se stai chiudendo, ciao, ti saluto. Grazie per il QSO, ci sentiamo eventualmente in altri momenti, magari in condizioni ancora migliori. Ti saluto anche da parte di Natalino, perché non so se l'hai ascoltato, anzi me lo dirai, perché lascio un attimo a te il microfono per il saluto finale. E mi dovrai dire se hai ascoltato Natalino. Avanti ancora Paolo, grazie. Cosa ha detto Natalino, ho capito? Trasmettiamo dalla città di Sassari, nord della Sardegna. Io ho l'antenna bassa, capito? Spunta 2 metri appena dal tetto, quindi non è una condizione come si deve per poter trasmettere, dai. Ti saluto Paolo, alle prossime. Ok Paolo, ti saluto di nuovo, dai. Una stretta di mano, alle prossime, evidentemente, e magari in condizioni migliori. Ciao, ti saluto anche da parte di Natalino di nuovo. Avanti Natalino. Ho detto che trasmetto da Sassari, nord Sardegna, Sassari, nord Sardegna. Ok, ho capito Paolo, tu trasmetti dall'Umbria quando sei in stazione fissa. Bene, dai. Comunque un piacere averti ascoltato, dai. Ti saluto di nuovo anche da parte di Natalino, che sicuramente hai ascoltato. Ci sentiamo le prossime, grazie ancora per il QSO. Ciao Paolo. Vai Natalino. Mica. Oh, chi ne sono? 10:30 già. Come vola via il tempo. Infatti il tempo. Il tempo vola via. Tu pensa che io ho iniziato subito dopo pranzo a controllare quei documenti, eccetera, e ho finito poco fa, appena ne ho finito. finito, sono salito su e ho acceso il baracchino fino a quell'ora. Per cui, insomma, erano due cartelle belle gonfie di documenti. E dunque prima li ho dovuti tutti leggere, vedere un po' se la cosa che potevo tagliare o che dovevo conservare. Per cui va bene così. E ho riempito la scatola di cartone del comune, quello che ci hanno dato per mettere la carta. Va bene, comunque anche quello è fatto. Era una cosa che dovevo fare un po' da tempo, però ho deciso di farlo oggi e l'ho fatto. Avanti la tazza. Sì, infatti. Hai fatto vero, ma tutti i barattoli un po' di roba. Inutile poi tra l'altro. Sì, no, lo sto selezionando, anche con l'aiuto di mia figlia anche. Tu pensa, abbiamo tirati fuori tanti di quei giocattoli che tu non hai un'idea, tutti i giocattoli che erano di mia figlia, di quei pupazzi di tutti i generi, di bambole, cavallini, peluche, tutti di che cose. Beh, ne ha scartato un sacco pieno, da portare all'ecocentro, proprio perché non si può mettere nel coso della mondezza quando vengono loro a ritirare, la devo portare lì all'ecocentro. Per cui adesso può farsi che domani faccio la scappatina o dopodomani, se no aspetto il giorno che devo salire per prendere la pensione e così faccio due commissioni e un viaggio. Forse mi conviene fare così. Intanto il sacco adesso è già pronto da andare a conferirlo all'ecocentro. Va bene, dai, riprendi la tele. Uno di camion di roba da Giurampardi in Chivi. Allora, in ecocentro, quando lavoravo all'ambiente e anche al verde urbano, uno o due camion di roba da Giurampardi. Certo che sì, ma è normale. Quando lavavi in quel settore lì, è chiaro che andavi, trasportavi e scaricavi lì. Certo che sì. E così almeno abbiamo eliminato. Oh, sono tutte cose. Tutti i miei pezzi, le cambio da Messina Minoli, mi vigliura. Sacco di bambole, sacco di cose che non ha. Giocattoli di ogni genere, di ogni tipo. Caspita, quanto la giovinziata quei giocattoli. Ah, nonna di Vidusino. Quando ho visto il sacco che sta buttando via, alcuni se li sta tenendo. No, questo mi piace, me lo tengo. Dove mi vai? Me lo tengo perché è bello. Avanti, che dai, mi puoi giocare. No, non devo giocare, comunque. Ma comunque un sacco pieno da eliminare. E così è stato. Domani o dopo vado al butto. Sì, infatti anche ti impegna in un bel di lupo, c'è roba, hai fatto bene che ti rampi tutto e via. Perché ce l'avevo sempre conservati, dunque ho fatto un po' di spazio, ho fatto, perché questo spazio non basta mai, nonostante che ho 200 metri quadrati di casa, questo spazio non basta mai, cosa vuoi che dici? Per parlare poi di bestiari e di scarpe, l'altro giorno lo stesso, un sacco pieno di scarpe, senza esagerare ha buttato via mia figlia una cinquantina di paia di scarpe, buone, 50 paia, buone, perché ha un armadio da terra, un solaio alto, e ci sono 6 sportivi, 3 sotto e 3 sopra. Insomma, è largo 1,50 m questo armadio, tutto pieno di scarpe, tutte le scarpe sue sono tutte dentro questo armadio scarpiera, che le avevo fatto io, chiaramente. Ha fatto la selezione, e poi l'ho portato alla piana. E andate, ha fatto un viaggio dormo. E ma perché le hai buttate quelle là? Perché non mi piacciono più. Vabbè, piace poco spaccola queste cose qua. Vabbè, io che sto lavorando, già non so che stai lavorando, no? Non è che si deve spaccare la cosa così, no. Scarpe nuove, la terza, sai cosa vuol dire nuove di zecca, buttate, la sbagliata se la di buttare a con la fare degli indumenti, con il calzone degli indumenti, perché lì si mettono, lì si mettono le scarpe. Sicuramente qualcuno può li ha presi. Io lo credo, poi le femmine andano in macchina di volte, mamma mia, le pagine di volte che vanno le femmine. È una cosa incredibile. Ma è un'esagerazione, la sanità. Non si può avere 150 paia di scarpe, dai, è una cosa esagerata. Perché ce li ha, ce li ha, quel numero ce li ha. 150 pagine, è una cosa vuol dire? Se ti sto dicendo una madre, una terra, da terra sino al solaio, alto, con 6 potelli, 3 sotto e 3 sopra, largo 1,50 m. La vanità delle botte adesso. Bisogna armare con 150 pagine di botte. Vabbè, comunque. Cioè, le donne sono così, ci tengono alla moda, al vestiario. Lasciamole fare. Infatti le donne vanno matte per le scarpe e per il vestiario, però pari volte di più. Il vestiario è lo stesso, se li rampo sempre in grandissime quantità, ma roba nuova, vestiti nuovi, giubbotti nuovi, gonne nuove, pantaloni nuovi, basta, cosa vuol dire? Tu pensa che una volta c'era un amico, c'era in faraglieria, io avevo il portabagagli con alcuni indumenti, no? Che dovevo buttare, e c'erano anche dei giubbotti. E c'era questo amico con la moglie. Io ho preso il portabagagli per prendere una cosa, ho visto questa cosa e ho fatto, mi devo buttare questi nelle cassone degli abiti. Buttare, fai vedere. Ha pegliato, ha guardato, ha visto un giubbotto, se l'ha infilato, questo me lo prendo io. Ma questo ti piace, prenditelo tu, prenditi ora te, nuovo, sai cosa vuol dire nuovo? Un giubbotto è un peccato, nuovo. Ma lo sai, i femmini di Piazza Ciambà, stanno sempre comprando, c'hanno la frenesia dello shopping. Sì, è così. Sì. Io l'altra volta stavo andando, ho detto, accompagnami, che vado a comprarmi un paio di ciabatte, che quelle che ho adesso per casa e sono un po' invecchiate, sono vecchie. Sono andata a Ghidà e mi ha convinto, ha impegnato due ciabatte, due paio di botti e 4 pantaloni. E io ero andato a comprare solo un paio di ciabatte o una spesa. Ma sono contento, ci bevo più io a fare la spesa, perché con te non si può andare. Ha detto no, è con te che non si può andare, ma tu, perché tu sei sempre in fretta. E capita, non so, io andavo a comprare un paio di ciabatte, ma ci dicevo un paio di due paio di botti, che non me ne servivano scarpe, già ne avevo, sia invernali che estivi. E 4 pantaloni, non lo so io, prenditi una tagli. E così è, le robe sono così, non c'è da fare. E così mi fa di mia moglie, ma stessi. Io non vengo più da via, mi gatta guida invece, aspetta questa. E ci più da un buciafoglio. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Ma dove fa? Comunque. E poi, tu non ci crederai, io avevo anche da poco un paio di scarpe che non avevo comprate l'anno scorso, non le avevo mai messe, mai. Me le sono messe, come le sono messe, si è aperta la tovaglia, si è aperta. Perché? Perché la pelle, se tu non la usi, se non la utilizzi e la lasci sempre conservata, si rovina. E erano cucite tutte scarpe buone, scarpe cucite, come si deve. Come me l'ho messo, sono andato a camminare e si è aperto un trappo, si è fatto di 2 o 3 centimetri. Che si è fatto? La scarpa nuova mai messa. La pazzia. E da subito, quello perché non le ha mai usate, perché per te quando ci sono le scarpe nuove le devi anche usare, se non è inutile che tieni lì, non so, le devo usare, ma non è che tu ti taglio già lì, cioè, me le botte, a me non me ne frega niente, io quando le scarpe ce le ho nuove, quelle che sono ai piedi, va bene lo stesso, mentre io ho dovuto buttare le scarpe nuove mai indossate, le ha cambio come se ho camminato a casa e mi sono rompiti. Cazzo, me l'ha avuto in 2 anni le vostre nubi. Perché non le usavi e deve essersi rovinata la pelle e è successo così paese. Sì, o sono state cucite male, non lo so cosa è successo. Caspita, quando tu mi ammali già un po' come. Vabbè, pazienza. Ce l'avevo presa dall'anno scorso, ce l'avevo presa, però non l'avevo mai messa. Perché sempre per il solito ho visto che quando andiamo a comprare le moto non le compare più mai un paio, minimo le compare di 2 paghe, se non 3 o 4 da tributi, ecco qua il discorso. Ma io non sono un tipo che cado tutti i giorni, a me non me la fai nulla, io ho un paio di scarpe le posso tenere anche una settimana, magari la settimana presso li posso cambiare e uso un altro paio per dire, no? E io non so come ti fate le verme, voi mi siete buoni un paio a mangiare e un paio a sera. E noi che posso fare così o no? Già le usate, e quante volte le usate? 2 buci. Ma te sembra che si può comprare una borsa per usarla 2 volte, oppure un vestito per mettere indossato 2 volte. E vabbè, e meno male che ce li ho, dice, e meno male che ce me li posso comprare. Ma te hai ragione, meno male che te li puoi comprare. Ma pensa anche a quelli che non possono comprare un pochino. E beh, infatti penso anche a quelli, perché ogni tanto dice faccio la selezione e li portiamo via al cassone degli abiti usati, che poi sono nubi nubi, ma te, anche quando non aiuto, hai ragione, oppure. Usati, se li buoni è una, due, questa è buona, se li buoni nei più. Cosa usati? Non ho visto. Appunto, quando tu li indossi 2 volte, un pantalone, te lo muovi 2 volte, o un vestito, te lo indossi 2 volte, e poi se lo metti da parte, non è nuovo, capita se è nuovo, ero quello. Vuol dire che no, non ha bisogno, non si può dire nemmeno di lavarlo, fa che se lo muovi un manzano, se lo muovi la sera, cosa ne fai? Ma per dire no, purtroppo è così, e vabbè, comunque. Finché si può, è bello farlo, perché no? Anche quelle sono soddisfazioni. Sì, infatti. Vabbè, giù. Io ti lascio che devo... Sono già alle 7:15, devo cominciare a preparare. Se no è un macello, no? Che tra un po' rientra mia moglie. E io manco male. Vabbè, dai. Ci sentiamo alle prossime. Grazie per il QSO. Alle prossime. Ok, ciao, ciao Natalia. Grazie a te. Grazie a te per la chiacchierata. Ci sentiamo, dai. Adesso no you e mi mangio un gelato. Così almeno completiamo la serata. Ciao Natalia, saluti in casa, ciao. Un saluto a tutti. Buona Pasqua. Buonasera a tutti, comunque, a tutti e due. Ciao Marco, ciao Natalino, Giulio. Ciao Antone, e forse hanno chiuso subito. Io ero di passaggio, mi era. Intanto sono in cucina che sto scaldando roba da mangiare. Non sto nemmeno più accendendo, Antone. E poi ci abbiamo un casino di roba da fare. Periodo, poi col caldo, sai che bello mi. Già lo so. Col caldo che c'è adesso. È un casino. Facciamo questa mattina. C'è Salerno che chiama Antone, dai, provo a far chiamate, io stacco che tanto sono i fornelli. Ok, ci sentiamo Antone, quando capiterà. Ok, dai, ciao Marco, ci sentiamo, saluto a tutti, alle prossime, facendo cose anch'io, quindi no, la posso insomma corrispondere all'amico di Sud Italia. Lea di Rencuno Dando. Abbonato, Lea di Rencuno Dando. Uno lo capisce il saldo, mi dispiace per te. Ciao, saluto anche a te, dai, sto facendo un lavoro. Ci sentiamo alle prossime. Stammi bene, amico mio. Mi raccomando. Sardi si nasce e sardi si parano i cosi gol e più si segna. No, io non sono di Salamanna, sono di Sassari, grazie a Dio, no, di Sardegna, quindi tu sei la zona di Cagliari, di Castello. Appunto. Ehi, c'è caldo qua, aspetta un attimo, sto facendo un lavoro, se no prendi a fuoco tutto qua. Ti chiamo fra un po', dai, rimani qua su questo canale al limite, già ti chiamo io. Dammi 10 minuti di tempo che è saldo e se no prendo fuoco qua. La riscossa. Attenzione collega, se ascolti l'isola sarda, la città di Sassari, avanti. Campo dai, l'operatore è Gianni Doppiolunga di Supercordialista. Da dove? C'è molta propagazione, non ti ho capito cos'è detto. Kappa Kappa, e adesso da dove stai modulando? Kappa, sei lì per lavoro? Ho capito, dai, mi dispiace. Tu che ti ascolto bene anch'io, in mancanza di propagazione ti ascolto bene. No, io qua sono con Nova. No, sono Gianni Doppio Room. Ci sono troppe sovramodulazioni, non so se mi stai ascoltando, dai. Kappa Kappa, prova così se mi ascolti Salerno. Così mi ascolti, Kappa. Attento, amico di Salerno, mi ascolti. Avanti chi chiama la Sardegna. Ho capito che sei da Lecco, ma non ho capito il tuo nominativo. Se vuoi ripetere il nominativo, da questa parte è Gianni Doppio Lunga, la città di Sassa. Kappa Lecce, dai. Ben sentito, dai, 7351. Ti ascolto il mancato di QRM da parte, le sovramodulazioni da parte della propagazione. Kappa, ho capito che hai un collega di Sassa. Oggi c'è molto caldo qua, sono a 32 gradi a quest'ora. Qua ci si fa rosso, se metti le uova si cucinano sull'avanzare. Ho detto che se metti le uova sull'avanzare si fanno fritte. No, Sassari città. Senti un po', se vuoi fare questo passiamo su un altro canale, dai, facciamo sul 15. C'è qualcuno? Avanti sul 10.